Cari amici di UniAlef, vi ringrazio per la vostra partecipazione che sta diventando sempre più numerosa. Ciò indica che la coscienza del popolo italiano sta cominciando a risvegliarsi. Io sono molto felice di essere in contatto con voi e di poter, diciamo, guidare questo processo di liberazione del nostro paese. E come sapete, l'università è indispensabile che faccia il suo lavoro di formazione dei cittadini. Ecco, e quindi vi do ottime notizie dal nostro punto di vista, che sempre più docenti stanno dando la loro piena disponibilità, hanno capito che cosa stiamo facendo. Ecco, quindi da Paolo Maddalena ovviamente, ma e vari altri giuristi, economisti, che non mi aspettavo che dessero un'adesione così entusiasta. Ebbene, che cosa ci aspetta quest'anno? Quest'anno ci aspettano cose bellissime. Intanto il prossimo convegno dell'11, 12, 13 in un castello che ci è offerto gratuitamente dal proprietario, che anche lui ha capito bene che cosa vogliamo fare. E lì dove c'è una grande sala, più di una, e lì quindi avremo non solo la possibilità di fare un seminario di formazione profonda della nostra psiche, rivolta alle nostre emozioni, come facciamo regolarmente, facevamo anche in Aleph, ma questa volta, oltre a fare questo, a condurre questo seminario insieme a Nicola Donti, ci saranno degli ospiti che consentiranno di allargare a livello proprio di alto spessore culturale le tematiche che noi tratteremo interiormente alla psiche rispetto alla psiche esterna, cioè alla psiche che c'è nel mondo, quindi all'inconscio collettivo che si esprime nell'economia. Ecco, io non vedo l'ora che queste tre giornate inizino, ma perché sarà, io credo, un luogo dove finalmente si forma una comunità in cui si comincia a risvegliarsi una coscienza nuova, la coscienza di cui abbiamo assolutamente bisogno, una coscienza etica, comunitaria, che tra l'altro è prevista in Costituzione come necessaria per poter attuare il tipo di repubblica democratica fondata sul lavoro che è delineata nella Costituzione, col tipo di economia che è previsto nella Costituzione. Quindi io credo che quello non sarà solo un convegno, sarà una festa e sarà una data di inizio dell'anno accademico e nello stesso tempo una data che probabilmente sarà una data storica. Fra 10 anni saremo felici di poter dire io quella volta c'ero e ho contribuito proprio con la mia presenza, col mio entusiasmo a fare questo. Con questo io vi saluto e vi auguro le buone feste, buon fine anno e soprattutto un inizio di anno e un proseguimento di anno e della nostra vita tutta quanta, della nostra futura vita, in cui ci sia davvero un cambiamento, quel cambiamento che ormai moltissime persone non credono più possa avvenire. Noi come esseri umani possiamo realizzare i nostri sogni, ovviamente quelli dell'anima, solo se facciamo questa trasformazione personale, richiesta in Costituzione articolo 3, dove parla di pieno sviluppo della persona umana. Con questo vi saluto, vi ringrazio per la dedizione che state mostrando nei nostri confronti e ci vedremo molto presto.